Il mio compito è di dare il benvenuto a tutti voi, che siete numerosi anche questa sera. L'iniziativa di oggi si inserisce in un contesto, in un percorso che stiamo portando avanti da alcuni anni, dedicato alla storia moderna e contemporanea, con una declinazione, uno sguardo attento al territorio, e in questo caso ci aiuta anche l'associazione Storia Regione Geschichte und Region, che questa sera è rappresentata qui da Michael Oberhuber, che ringrazio e saluto. È una collaborazione che sta andando avanti da parecchio tempo e che vedo dà i suoi frutti già da un paio d'anni. La biblioteca infatti vuole sempre cogliere delle occasioni per approfondire certe tematiche con l'aiuto di ospiti che questa sera vedete qui al nostro tavolo e che saluto e ringrazio. Sono Enzo Janes, Lorenzo Vicentini, gli autori appunto del libro Un'alba sorgerà, internazionalisti trentini e sudtirolesi nella guerra civile spagnola. Ecco, è una pubblicazione della Fondazione Museo Storico del Trentino, che quindi anche è un altro ente, un istituto con cui noi collaboriamo spesso per realizzare queste iniziative. Iniziative che la biblioteca costruisce nel tempo con tanti enti, tante associazioni, proprio per invogliare alla lettura, all'approfondimento di tante tematiche, soprattutto anche di quelle di carattere storico. Ecco, questo sì, è un territorio interessante il nostro e che merita una maggiore attenzione da parte di tutti noi. Con il premio Claudio Augusta che ogni anno indiciamo, vediamo che anche la storia diventa sempre più interessante anche per i giovani e le giovani studentesse, per cui abbiamo sempre delle tesi di laurea interessanti, il nostro patrimonio si arricchisce ogni anno e quindi ci dà soddisfazione anche questa linea che stiamo seguendo. Non mi dilungo troppo, vi lascio alcuni spunti per altre iniziative di questa settimana. Come biblioteca domani ci ritroveremo con la presentazione di un romanzo alle ore 17 di Graziano Bortolotti, che scrive romanzi di carattere poliziesco. Questa volta si intitola Il ragno, i casi della squadra Z. Sarà con lui Maria Luisa Borzaga, è un autore trentino che ha lavorato qui a Bolzano e quindi conosce benissimo il nostro territorio e ambienta i suoi romanzi proprio qua. Quindi anche interessante. E poi invece la prossima settimana, martedì 3 dicembre alle 17:30, avremo la presentazione di un altro libro, Migrazioni verticali, la montagna ci salverà? Questo è un interrogativo a cui tenteranno di rispondere gli ospiti Andrea Membretti, che è il curatore, Camilla Wellstein e Judith Hafner, che dialogheranno con l'autore, e poi Massimiliano Boschi, che farà la moderazione. Tema molto caldo perché riguarda comunque l'ambiente e si inserisce anche in una linea che abbiamo percorso e che stiamo percorrendo riguardante gli obiettivi dell'agenda 2030. Bene, a questo punto lascio la parola alla collega Michaela Oberhuber e vi saluto con la speranza di ritrovarvi qui in biblioteca nei prossimi giorni anche, e grazie ai nostri ospiti. Grazie mille. Grazie, buon pomeriggio, buonasera. Sono lieta di portare anche i saluti da parte di Storia Regione, Geschichte und Region, e ringraziando soprattutto la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta per aver accolti oggi qua e per aver accolto la nostra proposta di presentare questo libro insieme. Il libro, come lo vedete qua sulla copertina, un libro al quale abbiamo atteso per tanto tempo. E siamo molto felici che ce l'abbiamo anche apticamente qua, che non era scontato visto che l'altro ieri praticamente era ancora in stampa, però loro ce l'hanno fatta, grazie mille, questo è un grande traguardo, ma non solo per questo siamo contenti, siamo anche contenti per il contenuto di questo libro, che è un libro che racconta una storia importante della nostra regione che però spesso non viene raccontata o viene dimenticata. E Enzo Janes e Lorenzo Vicentini, allora quelli fuori, non quello in mezzo, raccontano in questo libro la storia dei volontari trentini e sudtirolesi che insieme a tanti altri di tutto il mondo negli anni 30 sono partiti per la Spagna per fare parte di una battaglia. E gli autori in questo libro, e vedete che non è un libricino ma sono 900 pagine se non erro, percorrono la storia di questi volontari trentini e sudtirolesi, ricostruendo la loro vita, la loro biografia a lungo termine, cioè iniziano alla Grande Guerra, alla Prima Guerra Mondiale, e la seguono fino al secondo dopoguerra, dunque in una lunga prospettiva. Inoltre, alla fine c'è anche ci sono anche le schede biografiche degli individui, se qualcuno è interessato a una persona in particolare, e soprattutto, e quello è molto interessante, un ricco apparato di fotografie in parte ancora inedite, e spero che stasera ci fate anche vedere qualche foto del vostro libro. Allora, noi di Storia Regione siamo particolarmente contenti di avere loro tre, in questo caso tutti e tre qui, perché la nostra collaborazione ha iniziato già tanti anni fa, ormai anni fa, con questo numero qua. È un numero della nostra rivista Storia Regione, uscito nel 2016, con un tema specifico, curato da Andrea Di Michele, che oggi è anche qua, e è dall'Abissinia alla Spagna, Guerra e Memoria, 1935-39. E in questo numero qua ci abbiamo più articoli, un articolo proprio di Enzo Iannes e Lorenzo Vicentini, che lì presentano i primi risultati della loro ricerca che adesso abbiamo qua pubblicato nel volume, e inoltre abbiamo anche un articolo di Joachim Gatter, quello in mezzo qua davanti, che anche lui ha contribuito con un saggio parlando delle difficoltà di integrare la memoria degli altoatesini e tirolesi, cioè quelli del nord Tirolo e l'Austria, nella memoria collettiva della regione, che non era così facile. Dunque, dopo tanti anni, adesso ci ritroviamo qua con un libro. Lascio subito la parola a loro, voglio solo presentarvi brevemente, molto probabilmente lo conoscete già, però fatemi dire qualche parola. Lorenzo Vicentini lavora in ambito educativo, si è laureato in studi storici e filologico-letterari con una tesi sull'archivio del socialista roveretano Emilio Straffelini, e per conto della Fondazione Museo Storico del Trentino, che hanno anche pubblicato questo libro, ha effettuato il riordino e l'inventarizzazione delle carte di Straffelini. Lui è autore, insieme a Enzo, di alcuni saggi sul tema dell'antifascismo, emigrazione politica e volontariato in armi, pubblicati su Storia Regione, Geschichte und Region, e anche dai nostri concorrenti, se vogliamo dire, nell'Archivio Trentino. Tra il 2023 e 2024 ha anche collaborato per la realizzazione degli spettacoli teatrali a Trento di Boxeur e Mi chiamavano Tina, sulle tracce di una rivoluzionaria antifascista. Adesso ho perso quello di Enzo. Scusami. Lo devo sapere a memoria, dici? Quasi, quasi. Dai. Invece Enzo, l'altro autore di questo libro, Enzo Iannes, lavora come educatore per persone con disabilità, si è laureato in sociologia e scienze pedagogiche con una tesi di carattere storico e si occupa infatti anche lui di storia contemporanea con uno sguardo regionale e affronta temi come l'antifascismo, l'immigrazione politica e volontariato in armi, e insieme a Lorenzo ha pubblicato da noi e nell'Archivio Trentino. Lui collabora con la Fondazione Museo Storico del Trentino e anche dal 2017 con Radio Tandem, la radio qui di Bolzano. Questi i due autori, e noi abbiamo pensato: chi altro potrebbe presentare questo libro insieme agli autori se non Joachim Gatter? E in effetti lui ha accettato il nostro invito. Joachim Gatter, oltre a aver scritto questo articolo di cui vi ho parlato, lui si è laureato in scienze politiche e in storia a Innsbruck e a Bologna, ha lavorato all'Università di Innsbruck e anche all'Istituto di Ricerca di Innsbruck del Brenner Archiv, è stato ricercatore al Centro di Competenze di Storia Regionale dell'Università di Bolzano e adesso insegna a Bressanone. E Joachim Gatter nelle sue ricerche segue soprattutto la storia del movimento dei lavoratori socialista e comunista nella nostra regione, nell'Alto Adige, e della resistenza antifascista, e ultimamente affronta anche la storia dell'edilizia sociale in Alto Adige dopo il 45. Un altro pilastro non ti ricordi? Mi ricordo io. Sì. Un altro pilastro importante dei suoi studi è l'opera La vita di Norbert Dencekhasa e di Egon Erwin Kisch, e questo potrebbe essere interessante per il nostro contesto perché ha ripubblicato un'opera di questo giornalista che era presente alla guerra civile in Spagna e voleva raccogliere le storie dei soldati che ha trovato lì, che ha incontrato lì, e tra l'altro ha incontrato un tirolese, un contadino tirolese, e ha raccontato questa storia nel libro Die drei Kühe, eine Bauerngeschichte zwischen Tirol und Spanien. E Joachim Gatter l'ha ripubblicato qualche anno fa con Rezia. Ecco, questa è la breve presentazione, lascio subito la parola a loro. Dopo il loro intervento avete tutti quanti possibilità anche di fare domande, di una discussione, però adesso vi auguro una interessante serata e Joachim, la parola a te. Grazie. Sì, grazie Michaela e buonasera a tutti. Volevo solo dire perché io sto in mezzo perché qui c'è il laptop, io sono un po' nascosto perché le persone più importanti sono Enzo e Lorenzo. E niente, la mia parte sarà molto breve perché l'opera da presentare è quella di Enzo e di Lorenzo. Io vorrei solo dare un piccolo quadro storico sulla guerra di Spagna. Immagino che un po' tutti sapete di cosa stiamo parlando, però magari forse un piccolo rinfresco, così siamo un po' in mezzo al tema. Adesso cerco solo di... Ah, si può vedere, ok. Quindi, guerra civile in Spagna, sappiamo che ha durato dal 1936 al 1939 ed è considerato un po' l'anteprima della Seconda Guerra Mondiale, perché la cosa più importante, come sapete, è quella che ha avuto una doppia dimensione, è stata una guerra civile in Spagna tra spagnoli, però aveva anche avuto, come tanti conflitti anche dei nostri tempi, una dimensione internazionale, e in quei tempi era il conflitto tra fascisti e antifascisti. Volevo solo un po' farlo vedere con due immagini. Qui alla vostra sinistra avete la bandiera dei franchisti, no? E si vede già un po' che sono anche quelli i colori della Spagna di oggi, e alla vostra destra avete la vecchia bandiera della Repubblica Spagnola, che non esiste più. E comunque il conflitto è partito nel 1933 con la instaurazione della Repubblica, no? E comunque il paese era già lì diviso, comunque questa società era divisa in diverse parti, e qui nell'immagine su dove vedete scritto Los Nacionales, è un manifesto di propaganda della Repubblica, e fanno vedere un po' il nemico, no? E qui vediamo dentro un po' le parti che stanno dalla parte dei nazionalisti. Si vede la Chiesa, no? Col prete o col cardinale, si vede anche il borghese col stemma nazista, si vedono i militari, e sappiamo che Franco è stato un generale, comunque le vecchie elite monarchiche erano a parte dei nazionalisti. Invece la Repubblica è stata appoggiata, come vediamo nell'altra immagine, qui un'immagine degli anarchisti, però l'ho messa un po' come simbolo per gli operai che vivono nelle grandi città. Comunque è stata la popolazione che era un po' a favore del progresso, c'erano anche tante donne moderne che appoggiavano questa Repubblica. Comunque nel 1936 poi la guerra scoppia perché alle elezioni vince il Fronte Popolare, cioè la sinistra, e i nazionalisti hanno paura che adesso, diciamo, loro hanno ancora meno influenza. E come sappiamo, nel luglio del 36 fanno il golpe, no? E cercano di rovesciare la Repubblica, e la guerra civile inizia perché non riescono a fare il golpe, no? E poi non vado, passo alla dimensione internazionale è quello perché c'è l'appoggio per entrambe le parti dall'estero. Come sappiamo, i nazionalisti sono appoggiati dai fascisti. Qui abbiamo un'immagine della propaganda repubblicana contro l'intervento italiano, corpo, truppe volontarie, magari le conoscete, e in Germania c'è questa Legion Condor, no? Che appoggiano i nazionalisti, mentre nella parte della Repubblica, abbiamo poco appoggio statale, cioè Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia si tengono fuori, però abbiamo questo fenomeno delle brigate internazionali, quindi i trentini di cui stiamo parlando oggi poi fanno parte di questo gruppo e sono organizzate dalla Comintern a Mosca, però in effetti sono tante singole persone che vanno per il proprio conto in Spagna per appoggiare la Repubblica. No? Solo per avere qualche immagine di quali territori stiamo parlando, il golpe, come ho detto, viene fatto nel luglio 36 in Marocco e poi da lì partono i nazionalisti. Qui il territorio rosa è quello dei nazionalisti e vediamo che si ingrandisce sempre, mentre i territori repubblicani sono Madrid come città, Valencia come città, Barcellona, cioè i centri urbani e anche industrializzati. In più anche la Repubblica è appoggiata dalle minoranze, cioè dai Paesi Baschi, dalla Catalogna e anche dal Valenziano. No? Come vediamo qui, poi nel luglio 38 già si vede che la guerra andrà a finire male per la Repubblica e finisce nel primo aprile del 39. Adesso siamo già alla memoria, no? Come sappiamo, se poi una guerra finisce, anche come in tutta Europa, in tutto il mondo, quando finisce la Seconda Guerra Mondiale c'è tanto da memorizzare. No? In Spagna il fenomeno è stato quello che i nazionalisti instaurano la dittatura fascista, no? Con Francisco Franco, e quella rimane al potere fino alla morte di Franco nel 1975. C'è una cosa che anche non è tanto noto, che abbiamo una dittatura fascista in Europa fino al 1975. No? In Spagna chiaramente in quel periodo c'è nessuna memoria ufficiale della Repubblica. No? Abbiamo come qui questa immagine con la croce grande, vedete il mausoleo di Franco. No? C'è stata una memoria ufficiale che non ha parlato tanto della guerra civile, e se è stato parlato chiaramente solo da parte solo sulla parte dei nazionalisti, cioè erano gli eroi quelli che combattevano al fianco di Franco, mentre i repubblicani sono stati considerati antispagnoli, no? E solo negli ultimi cioè negli anni 90 si è iniziato a riscoprire questa memoria repubblicana. Quindi vi ho messo questa foto di una fossa, cioè delle ossa che sono state scavate fuori di qui si tratta di vittime repubblicane che sono state uccise dai franchisti. No? E comunque in Spagna abbiamo ancora oggi questo fenomeno che si sta avendo questa riscoperta della memoria repubblicana e si cerca di dare spazio a entrambe queste parti della memoria. Fuori della Spagna, cioè per noi che non siamo spagnoli, ci interessa come qui in Tirolo l'aggancio che noi abbiamo a questa storia. E qui abbiamo, da parte delle fonti, due approcci. Abbiamo quello che anche hanno fatto Enzo e Lorenzo. Si va a riscoprire le biografie di quelle persone che hanno partecipato alla guerra civile, e quello è stato fatto già dagli anni 90 in poi sul livello nazionale. Qui vi ho messo solo due screenshot di due website dove chi si interessa può andare in cerca a delle biografie. Quella del DÖV è situata a Vienna, del Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, e qui si possono vedere tutte le biografie dei volontari austriaci che sono andati in Spagna. E l'altra immagine è quella della website dell'AICFAS, l'Associazione Italiana dei Combattenti Antifascisti Volontari in Spagna. Anche loro hanno un sito internet dove uno può andare a cercare le biografie dei volontari italiani. E negli ultimi anni siamo ancora con la letteratura. La seconda fonte è la letteratura, perché sappiamo che soprattutto da parte repubblicana erano partecipi volontari anche tanti intellettuali giornalisti. E qui vi ho messo solo l'immagine di George Orwell, che tanti conoscono, anche lui scrittore famoso inglese, e anche lui è stato volontario e ha scritto questo libro sulla sua esperienza in Catalogna. E l'altra immagine è un libro di Erich Hackl, scrittore austriaco, che ha ripubblicato un volume con tanti piccoli saggi o testi letterari di austriaci e tedeschi che hanno partecipato alla guerra di Spagna. Quindi sono queste le due, i due approcci. E noi sul livello regionale abbiamo anche fatto delle piccole ricerche. Devo nominare il primo, che è il volume degli anni 70, mi sa nel 77, no? Di Renzo Franciscotti, Sotto il sole di Spagna. È stato il primo volume sui volontari trentini che sono nati in Spagna, e è uscito in un periodo dove comunque memoria regionale sul volontariato repubblicano in Spagna non c'era, quindi era lui un pionier, bisogna dirlo. Poi sul Tirolo c'è questo libro di Friedrich Stepanek, Ich bekämpfte jeden Faschismus, Lebenswege Tiroler Spanienkämpfer. Lui su base del Döf ha ricostruito proprio le biografie dei tirolesi del nord e anche qualche sud tirolese che sono partiti per la Spagna. E abbiamo questo numero di Geschichte und Region, curato da Andrea Michele, che ho anche inserito, che tratta infatti anche la parte fascista. Comunque abbiamo anche la storia dei volontari o soldati fascisti che sono andati in Spagna. Lì, qui c'è anche il volume di un sudtirolese, Wilhelm Schreffler, che si è dato il nome italiano Guglielmo Sandri, ed è partito come volontario dall'altra parte, infatti dai nazionalisti. E ho messo anche questo libro, cioè questa fonte letteraria, Egon Erwin Kisti der Kühe, perché comunque è una fonte letteraria anche che ha un raggio sovraregionale di un protagonista tirolese che è andato in Spagna. E niente, comunque sono molto contento che adesso Enzo e Lorenzo hanno fatto un gran sforzo per anni per aggiungere un altro tassello, cioè un gran sasso di storia sui volontari trentini. Comunque, e voi avete seguito questo approccio biografico. E niente, volevo passare la parola a voi con una domanda, magari visto che già la Michela ha anche detto che abbiamo aspettato tanto, volevo chiedere quali sono stati gli ostacoli che avete dovuto affrontare, visto che dovevamo aspettare così tanto. Beh, intanto grazie a tutti di essere qui, è un onore, un piacere vedere così tante persone qua presenti ad ascoltare la nostra presentazione, che sì, è stato un lungo percorso, un percorso anche ad ostacoli, che non è stato reso semplice anche dal fatto appunto che non è il nostro lavoro. Questo l'abbiamo fatto per passione, per interesse personale, per una volontà di ricostruire delle storie di persone semplici, lavoratori, minatori, operai, che nel momento della loro vita presero la scelta di andare in un altro paese, rischiare la vita e combattere per ideali di giustizia e di libertà contro il fascismo che in quel momento storico stava prendendo il potere in tutta Europa. E sì, le difficoltà di questo lavoro sono state innanzitutto, anche visto che è un lavoro di archivio, è stato proprio anche quello di raggiungere gli archivi, visto che siamo dovuti andare a Roma, Milano, abbiamo dovuto diciamo chiedere, prenotare sale, andare in giorni precisi, insomma far combaciare tutto con la nostra attività lavorativa, con la nostra vita personale. E una cosa che diciamo invece ha favorito anche, ci ha favorito nella ricerca, è stata la possibilità di consultare a livello digitale molti archivi. Penso all'archivio delle Brigate Internazionali, che è conservato a Mosca, e quello lo abbiamo potuto consultare grazie al fatto che è consultabile online, digitalizzato. Evidentemente non avremmo avuto i mezzi per andare a Mosca e consultare quell'archivio, quindi diciamo che ci sono state delle difficoltà date appunto dalla mancanza di tempo e soldi eccetera, però anche delle cose che ci hanno favorito. Poi vuoi dire qualcosa a te riguardo? Ok. Allora, insomma, la nostra presentazione di solito ce la dividiamo in due, visto che essendo, come ha detto bene Joachim, un sasso, un mattone, questo contributo, è un lavoro che è stato reso possibile anche dal fatto che l'abbiamo fatto in due. quindi ci siamo divisi la ricerca in qualche modo, ci siamo divisi anche la scrittura di questo libro. E, tendenzialmente per ogni biografia che abbiamo ricostruito, ma come anche nella parte generale, io mi sono occupato un po' del periodo storico fino alla scelta di questi volontari di andare a combattere in Spagna, quindi mi sono occupato degli anni del primo dopoguerra, gli anni dell'emigrazione politica e delle prime lotte antifasciste, fino appunto al 1936-37, anni in cui i nostri volontari partirono per la Spagna. Volevo dire una cosa sulla scelta del titolo. Il titolo appunto Un'alba sorgerà è tratto da una lettera che ha scritto Emilio Straffelini a sua mamma pochi mesi dopo l'arruolamento in Spagna. Ed è appunto una lettera in cui Straffelini dice: un'alba sorgerà, siamo qui per combattere per un nuovo mondo, utopia, lo vedremo. E credo che sia importante tenere presente proprio anche il momento storico in cui avviene questo fatto. Appunto, in Italia c'è un regime fascista che governa da 14 anni, in un momento anche in cui il consenso è alto, comunque parliamo dopo la guerra d'Etiopia in cui si parla appunto degli anni del consenso del regime fascista. Nel 1933 in Germania ha preso il potere Adolf Hitler e in generale in Austria anche c'è un governo fascista, un governo comunque legato a questi regimi, alleato di Mussolini. E anche nel resto d'Europa, Jugoslavia, Ungheria, sono presenti regimi autoritari. La Francia, in cui si afferma il fronte popolare nel 1936, e la Spagna rappresentano un'eccezione in quello che è l'Europa nera di quel periodo. Quindi anche il tentato golpe dei militari spagnoli nel 1936 suscita una grande emozione e paura in tutto il mondo, soprattutto nel movimento democratico, operaio, socialista, rivoluzionario, perché insomma c'è la sensazione che se qualora i franchisti, i militari riuscissero nel loro intento, lo slancio che il fascismo avrebbe avuto sarebbe stato ancora più irresistibile, avrebbe presto poi coinvolto la Francia e altri paesi che l'Inghilterra e altri paesi che fino ad allora appunto erano ancora riusciti a resistere a questa ondata nera. E quindi diciamo adesso cercherò un po' di spiegare anche come è diviso questo lavoro, come abbiamo diviso questa ricerca. E innanzitutto poi ringraziamo la Fondazione Museo Storico del Trentino che ha creduto in questo progetto pubblicando il libro. Ringraziamo Mirko Saltori che non è qui, Quinto Antonelli che hanno sostenuto fin dall'inizio questo lavoro e chiaramente tutti voi che siete qui ad ascoltare. Ringraziamo Geschichte und Region che hanno organizzato questa serata importante per noi perché appunto arriva alla fine di un percorso di quasi 10 anni, anzi più di 10 anni di ricerca, faticoso e insomma un lavoro che è costato fatica, tempo e anche sacrifici. Enrico Acciai nella prefazione, nell'introduzione al nostro lavoro ha rilevato come nell'ultimo decennio l'attenzione degli storici verso i movimenti di volontariato e transnazionali in armi è andata progressivamente aumentando, anche perché queste pratiche, cioè la scelta di andare a combattere in un altro paese per i propri ideali, è riaffiorata negli ultimi anni. Pensiamo a quello che è accaduto nel Rojava in Siria, in cui abbiamo visto volontari di tutto il mondo andare a combattere con gruppi che si ispirano anche alle brigate internazionali. Abbiamo visto quello che è accaduto nella guerra del Donbass dal 2014 al 2022, con anche lì volontari da tutto il mondo che sono andati a combattere difendere la Repubblica del Donbass oppure anche contro la Repubblica del Donbass. E poi abbiamo visto anche dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia come si è riparlato a livello internazionale della necessità di regolamentare l'arruolamento di volontari di altri paesi. E quindi ci sembra come la ricerca sugli antifascisti trentini e su tirolesi, che avevamo iniziato circa 10 anni fa, ha iniziato ad avere un certo carattere di attualità, perché queste ragioni non sono consegnate alla storia, ma appunto rispecchiano anche il presente che stiamo vivendo. Quindi, come ha anche ricordato Joachim, ha già ricordato il libro di Francescotti, quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, siamo partiti dai risultati del libro di Francescotti, e che è stato poi integrato anche dal lavoro dell'AICVAS, che nel 1995 ha pubblicato un libro che conteneva le 4.000 mini-biografie dei volontari italiani in Spagna, da cui siamo riusciti anche a risalire a ulteriori volontari regionali. Un numero che è stato poi integrato anche dalla pubblicazione del libro di Stepanek, che ha citato appena adesso Joachim, Ich bekämpfte jeden Faschismus, da cui anche abbiamo rilevato altri volontari su tirolesi di cui non conoscevamo l'esistenza. Quindi già rispetto a un numero da cui eravamo partiti, insomma già con queste pubblicazioni eravamo riusciti a trovare un numero importante di volontari. Poi attraverso la ricerca degli archivi abbiamo scoperto volontari che erano finora completamente sconosciuti. E questo spazio di ricerca è stato appunto allargato dalla possibilità di consultare fonti archivistiche che nel frattempo erano divenute disponibili, poiché all'epoca delle pubblicazioni di Francescotti chiaramente non c'era la possibilità di consultare archivi che nel frattempo sono divenuti disponibili. E con questa pubblicazione ci proponiamo di riscoprire e mantenere viva la memoria dei trentini e sudtirolesi che hanno combattuto contro l'avanzata del fascismo in Spagna tra il 36 e il 39. E al di là delle differenze linguistiche e accomunate dalla bandiera dell'internazionalismo, rappresentarono la punta più avanzata di un movimento che coinvolse decine di migliaia di emigrati ed esuli. E questa esperienza in Spagna probabilmente fu la principale tappa intermedia nella lunga opposizione al nazifascismo in Europa, fatta di percorsi individuali e collettivi che sono rimasti a lungo nell'ombra, per via anche di un'impostazione storiografica che si è spesso concentrata prevalentemente sulla lotta di liberazione nazionale. E quindi, per quanto riguarda ad esempio il caso italiano, in particolare sull'esperienza successiva all'8 settembre 1943, dimenticando appunto come ci furono volontari come questo e tanti altri che combatterono in realtà per 20 anni pagando un prezzo altissimo. Quindi ci sembrava doveroso tentare di colmare questo vuoto riscoprendo e valorizzando le storie di quasi un centinaio di corregionali, in gran parte operai, minatori, semplici lavoratori, che in uno dei momenti più tragici della storia del Novecento decisero di passare i Pirenei, mettendo a rischio la propria vita in nome della libertà. E questa esperienza vide militanti su tirolesi di madrelingua tedesca e trentini di madrelingua italiana battersi dallo stesso lato della barricata per gli stessi ideali, quindi oltrepassando anche queste differenze linguistiche in un momento storico in cui qui nella provincia di Bolzano il fascismo costruiva muri, imponeva idee, lingua e tradizioni. Per cercare di capire appunto le motivazioni che portarono i volontari del Trentino Alto Adige a passare i Pirenei, abbiamo deciso di costruire le biografie sul lungo periodo. Di fatto abbiamo, per dove possibile, abbiamo ricostruito tutta la loro vita, quindi partendo dagli anni dall'istruzione scolastica fino agli anni della Prima Guerra Mondiale e fino alla fine, insomma, fino a dove è stato possibile. E per i più anziani di questi volontari le tracce emergevano con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E questo ci ha permesso di avere una comprensione più approfondita, non appiattita su una lettura esclusivamente politica o mitica di quel fenomeno, e ci ha permesso di far emergere la complessità dei singoli percorsi umani, politici e militari, intrecciati necessariamente con le condizioni sociali e politiche dell'epoca, nonché con le vicende dei movimenti politici e delle formazioni militari di cui fecero parte. Quindi nella parte generale del libro, appunto il libro è diviso, c'è una parte generale in cui restituiamo un contesto storico generale e una parte dedicata alle biografie, alle 88 biografie. In questa parte generale Abbiamo ricostruito il clima dell'epoca e per farlo abbiamo ricorso a testimonianze, a documentazione relativa a moltissimi altri emigranti trentini e sudtirolesi che emigrarono in Francia, in Belgio, e attraverso le loro lettere, attraverso articoli di giornali, abbiamo tentato anche di ridare loro voce, e restituire un po' il clima politico che suscitò in loro paure, ansie, aspettative, sogni, ideali. Si può quindi dire come all'interno del nostro libro la ricostruzione delle biografie dei volontari rappresenti il filo conduttore di una storia collettiva che si allarga ad innumerevoli altri dissidenti, operai e antifascisti che negli anni più bui del Novecento continuarono, anche nelle condizioni più difficili, a tenere vivi quegli ideali di giustizia, libertà e uguaglianza, ovunque sotto attacco. I volontari di cui siamo riusciti a ricostruire la partecipazione sono 88, 72 di origine trentina e 16 di origine sudtirolese. E fra di loro furono almeno 15, quelli che vissero direttamente i traumi della Grande Guerra, combattendo in gran parte con l'esercito austro-ungarico e venendo poi inviati sul fronte orientale. In un paio di casi, invece, si arruolarono nell'esercito italiano. La Grande Guerra fu in generale un passaggio decisivo per la formazione politica di moltissimi trentini e sudtirolesi, fra cui il volontario Guido Parteli, originario di Coredo, in Val di Non, che al momento dell'arruolamento nelle brigate internazionali dichiarò come il suo avvicinamento al comunismo e al socialismo era avvenuto proprio in Russia durante la prigionia. Un percorso ribadito nelle testimonianze di numerosi reduci, oltre che in documenti dell'epoca. Anche per il roveretano Emilio Strafelini, la Prima Guerra Mondiale, rappresentò un momento di rottura. Portatosi inizialmente in Italia su posizioni irredentiste, alla fine della guerra tornerà in Trentino da socialista, contribuendo a riorganizzare le sedi, le sezioni del Partito Socialista in regione. Nella provincia di Trento, nel primo dopoguerra, molte sezioni comuniste e socialiste furono aperte dai reduci della prigionia in Russia. E questo lo vediamo anche da numerose note della polizia, che vede sempre con sospetto chi è stato prigioniero in Russia, perché sospettato di avere, la polizia usava spesso termini tipo imbevuti di idee bolscevichiche. Comunque è un dato di fatto che molti tornarono da quell'esperienza con una consapevolezza politica maggiore e in moltissimi casi si formarono politicamente proprio durante la prigionia, diventando socialisti, diventando comunisti e quindi divenendo una fonte di ansia per le autorità che temevano, li vedevano come portatori di un virus rivoluzionario. In questo senso è significativa la nota del parroco di Casteltesino che nel 1920 scriveva: nella parrocchia di Casteltesino ci sono un centinaio di reduci della Russia e altrettanti operai venuti dalla Svizzera e dalla Germania, veterani in socialismo ed in sovversivismo, per cui la lotta diventa difficilissima, avendo a che fare con dei sovversivi incurabili. Quindi, oltre alla guerra, agli occhi delle autorità, anche l'esperienza dell'emigrazione e la conseguente circolazione di idee poteva creare problemi allo status quo paesano. Parliamo d'altronde di anni in cui la rivoluzione russa, unita agli esiti della Prima Guerra Mondiale, avevano fatto crollare imperi secolari, facendo crollare certezze ed equilibri di potere che parevano immutabili. L'onda d'urto della rivoluzione d'ottobre ebbe un impatto enorme sull'immaginario degli operai e delle classi subalterne di tutto il mondo. Io adesso... Ah, ok... Mi sono dimenticato di far partire le slide, scusate, che il mio intervento non è basato sulle slide, però le slide diciamo che fanno vedere un po' di immagini di giornali che vengono pubblicati in Francia, in Belgio, soprattutto in Francia, perché poi gli emigranti vanno, la gran parte va in Francia, e quindi ho riportato un po' di immagini di questi di giornali, ma anche di volontari che andarono appunto a... che passarono quel periodo lì. Poi magari se avete delle domande anche riguardo alle foto, poi dopo volentieri. Dovrebbe partire, è già partito, credo ogni 30, 20 secondi va, quindi teoricamente dovrebbe andare. Nell'immediato dopoguerra, quindi, in un clima di agitazione politica che si fece sentire anche in regione, si può quindi già rilevare la militanza politica dei futuri volontari più anziani. Cirillo Anzelini di Rovereto e Silvio Bianchi di Mori aderirono al Partito Socialista, mentre invece Luigi Angeli fu animatore della sezione socialista di Di Maro. A questi se ne aggiunsero di più giovani, come Giovanni Malacarne di Ponte Arche e Filippo Valle di Terragnolo, che aderirono al Partito Comunista d'Italia fin dalla sua fondazione, come qualche anno dopo fece anche Hans Elmenreich di Merano. Nel paese di Casteltesino, invece, Emerico Boso, insieme ai fratelli, aprì un circolo anarchico. Quindi la crescente conflittualità sociale determinata dall'occupazione delle fabbriche, degli scioperi, dalle lotte del movimento operaio trovò una risposta nel dilagare della violenza squadrista, che inizialmente prese di mira i militanti di base, così come le camere del lavoro, le cooperative e le case del popolo. Nel tentativo di porre un argine alle squadracce, nel corso del 21, anche in Trentino, venne fondata una sezione degli arditi del popolo. Una formazione paramilitare, costituita spesso da reduci della Prima Guerra Mondiale, a cui aderì, fra gli altri, anche il futuro volontario di Spagna, Novello Bartolozzi, toscano di origine e fra i fondatori della sezione del Partito Comunista del Trentino. Ricordo poi gli arditi del popolo ebbero anche un embrione, diciamo, a Bolzano, che fu costituito da ferrovieri provenienti da altre parti d'Italia, e diciamo sui giornali dell'epoca c'è questo episodio in cui alcuni arditi del popolo attaccano un gruppo di fascisti con dei colpi di revolver, e quindi diciamo che l'esperienza, la breve esperienza degli arditi qua a Bolzano probabilmente nasce e si esaurisce con quell'episodio lì. Tuttavia la presa del potere da parte di Mussolini restrinse rapidamente gli spazi di libertà e tutti i principali militanti, socialisti, comunisti o anarchici della regione, fra il 22 e il 26, furono costretti ad adeguarsi al nuovo corso e ridursi quindi al silenzio, oppure ad emigrare all'estero. I trentini si portarono soprattutto in Francia e in Belgio, ma anche in Svizzera e negli Stati Uniti. I sudtirolesi, invece, si trasferirono prevalentemente in Austria. Quindi nel nostro volume, attraverso la consultazione di fonti archivistiche, prevalentemente di polizia, giornali dell'epoca e il confronto con la bibliografia, abbiamo cercato di ricostruire il clima politico che spinse una generazione di militanti a lasciare l'Italia. Fra il 22 e il 1930, gran parte dei futuri volontari regionali emigrò quindi all'estero per un insieme di ragioni economico-politiche e personali, spesso intrecciate per la semplice ragione che, con il consolidamento del regime fascista, per un oppositore del regime trovare e mantenere un lavoro diventava sempre più difficile, a volte impossibile. Per molti di loro non vi è traccia di un coinvolgimento politico attivo in regione. La loro militanza emergerà spesso all'estero, dove avevano avuto la possibilità di entrare in contatto con partiti e sindacati e organizzazioni del movimento operaio e quindi di partecipare al dibattito dell'epoca. E anche qui diciamo uno degli aspetti problematici della nostra ricerca è che, avendo a che fare spesso con fonti di polizia e non con la testimonianza diretta di questi volontari, insomma è difficile anche riuscire ad affermare come è avvenuto questo processo di politicizzazione e come è avvenuto il loro avvicinamento alle organizzazioni politiche dell'epoca. Quindi insomma dobbiamo un po', come vedrete magari anche nelle biografie, spesso dobbiamo ricorrere a delle ipotesi. Quindi l'esperienza dell'emigrazione fu centrale nel percorso politico e umano della quasi totalità dei volontari di Spagna regionali. Questo ci imponeva la necessità di approfondire il clima che essi respirarono fuori dall'Italia fra la seconda metà degli anni 20 e gli anni 30 e come il loro percorso si intrecciò con quello del fuoriuscitismo e dell'antifascismo italiano all'estero. Nel nostro lavoro abbiamo quindi ricostruito il dibattito che si sviluppò fra gli esuli, ma anche le dinamiche politiche che si innescarono in Europa, con il rischio, in particolare dopo la presa del potere di Hitler nel 1933, di una completa fascistizzazione del vecchio continente. Nel fare questo abbiamo fatto uso articoli della stampa dell'epoca, ma anche, come ho detto prima, della corrispondenza degli emigrati regionali che gli emigrati regionali inviavano ai propri familiari, in cui esponevano le proprie riflessioni, allegando spesso articoli di giornali vietati in Italia, a dimostrazione che fuori dall'Italia vi era libertà di pensiero e di organizzazione. Abbiamo quindi ricostruito l'attività, il dibattito, le lacerazioni e i dissidi fra le varie correnti dell'antifascismo, in molti casi prendendo spunto direttamente dalle vicende dei singoli, ma anche da loro scritti apparsi in quel periodo su giornali comunisti, socialisti o anarchici pubblicati all'estero, fra cui alcuni di quelli che vedete qui. Va sottolineato come la gran parte dei futuri volontari trentini su tirolesi fossero di estrazione proletaria, impiegati come minatori, operai o nelle industrie nella Francia e del Belgio, oppure condannati a una cronica precarietà lavorativa ed esistenziale, a causa della difficoltà di ottenere i documenti che li mettessero in regola con le autorità. Tali paesi, sebbene formalmente democratici, tentavano di ostacolare in ogni modo l'attività politica degli immigrati, in particolare se legati a organizzazioni del movimento operaio. Nello stesso periodo, il clima politico nei confronti degli immigrati, in particolare contro gli italiani e i polacchi, peggiorò sensibilmente, con i governi della Francia e del Belgio, che sull'onda di una certa propaganda xenofoba, a cui non furono immuni nemmeno i sindacati e i socialisti, vararono provvedimenti restrittivi nei confronti dei lavoratori stranieri. A questo si aggiunse la capillare presenza di agenti della polizia politica italiana, che erano infiltrati in modo capillare nelle organizzazioni politiche antifasciste e che informavano costantemente le autorità italiane sulla situazione esistente fra gli esuli, sui progetti in corso, sulle loro difficoltà e sulle loro debolezze. Proprio uno di questi agenti, Ermanno Menapace, oriundo trentino, nel 1932 pubblicò il libro Tra i fuoriusciti, in cui espose la propria attività di spia, mettendo in serio in imbarazzo, fra gli altri, il loro veretano Silvio Bettini, alias Enzo Schettini, allora figura di riferimento tra i fuoriusciti. Silvio Bettini, che poi ricordo fra l'altro, fu consigliere comunale del Partito Comunista a Bolzano, nonché segretario della Camera del Lavoro di Bolzano nel secondo dopoguerra. Un altro agente doppio giochista al soldo dell'ovra fu Alessandro Consani, già segretario della Camera del Lavoro di Trento, poi passato a libro paga della polizia durante la permanenza in Francia. Egli trasmise numerose informazioni relative a Straffelini, da lui avvicinato grazie anche ai trascorsi di comune militanza che lo rendevano insospettabile. Le condizioni in cui si trovarono a vivere furono quindi difficili sotto ogni aspetto e diversi volontari per la propria militanza politica ricevettero ordini di espulsione che li spinsero a vivere di fatto nella clandestinità, come emerge dalle lettere e dai documenti che abbiamo riportato nel volume. L'emigrazione fu un passaggio decisivo nella formazione delle proprie convinzioni politiche e in alcuni casi anche nella loro evoluzione. Enzo, volevo solo dire, tu credo, se potresti stringere a 5 sì. Minuti. Ok, sì, l'ultima pagina. Ok, Emilio Straffelini in Francia si avvicinò in modo più netto all'anarchismo e da Parigi entrò in contatto con Pietro Nenni e Carlo Rosselli, divenendo esponente della Lega Italiana per i diritti dell'uomo. Quinto Battistatta di Povo in Belgio divenne un importante esponente comunista, agitatore e autore di articoli sui giornali, nonché punto di riferimento per gli emigrati italiani in Belgio. Silvio Bianchi di Mori a Parigi divenne amico di Carlo Rosselli, nonché stretto collaboratore di Nenni. Invece il socialista di Tres, Albino Zattoni, divenne uno dei principali esponenti del Partito Socialista a New York. Quindi nell'emigrazione si vissero conflitti e contraddizioni fra le varie anime dell'antifascismo. Tra il 1929 e il 1935 il Comintern aveva infatti messo sullo stesso piano fascismo e socialdemocrazia, contribuendo ad alimentare sospetti e diffidenza fra i militanti di base. Ad esempio, il nonno di CIS, Costante Mengoni, venne messo sotto inchiesta dal Partito Comunista per la sua vicinanza agli ambienti bordighisti, mentre invece Bianchi, conosciuto per la sua vicinanza al Partito Socialista a Parigi, venne sospettato dai comunisti di fare proselitismo fra loro per conto della concentrazione antifascista che riuniva i principali partiti dell'Aventino. Ma l'evento che agì da spartiacque fu sicuramente la presa del potere da parte di Hitler e il conseguente dilagare di tendenze fasciste in altri paesi europei, Francia inclusa. Questo impose la necessità di avviare un percorso di unità fra i socialisti e i comunisti, un processo accelerato dallo shock provocato dalla veloce e completa disfatta del movimento operaio tedesco, in cui il più importante partito socialista europeo e il più grande partito comunista dopo quello russo vennero nel giro di pochi mesi distrutti dalla feroce repressione nazista. Quindi il percorso che in Francia portò alla creazione del fronte unico prima e al fronte popolare poi incontrò l'entusiasmo della classe operaia, finalmente unita. E fu proprio in questo periodo, intorno alla metà degli anni 30, che numerosi volontari trentini, emigrati in Francia o in Belgio, aderirono a organizzazioni sindacali e a partiti, in cui quindi si iniziano a rilevare le prime tracce di politicizzazione. Un movimento, quello del Fronte Popolare, che coinvolse lavoratori francesi e stranieri, liberando soprattutto questi ultimi dal timore di partecipare alle attività politiche e quindi dalla paura di essere espulsi o perseguitati dalla polizia. Se per alcuni il percorso che portò alla scelta di partire per la Spagna fu tutto sommato lineare, contraddistinto da scelte politiche precise e coerenti con la propria militanza politica, in altri casi, alla base dell'espatrio e della scelta di passare i Pirenei, vi fu una sorta di ribellismo prepolitico, come nel caso di Mario Puecker, poi prese parte alla resistenza qui in Alto Adige, il quale fin da giovane conobbe il carcere per le proprie attività illecite, oltre che il carcere militare per la propria diserzione. Ricevette decine di fogli di via da altrettante località sparse in tutta Italia, forse per le proprie frequentazioni di luoghi di ritrovo per omosessuali. Anche questo è una storia, se volete poi magari ve la raccontiamo dopo. Egli espatriò in Francia soltanto nel 1936, probabilmente per sfuggire a un nuovo ordine di cattura e per lasciarsi alle spalle il clima soffocante dell'Italia fascista. Analogo ribellismo, per così dire istintivo, si può riscontrare in volontari come Fedrizzi, Rizzardi, Mimiora, Tafernero, Romagna, arruolati in Spagna dopo essere espatriati in seguito alla diserzione durante il servizio militare. Per altri, invece, operai o semplici militanti di base del partito, sconosciuti alla polizia politica fascista, le tracce di un loro coinvolgimento politico emergeranno solamente con la partenza per la Spagna repubblicana. E qui lascio il microfono a Lorenzo. Grazie Enzo e buonasera a tutti e tutte. Ecco, dopo aver cercato di ricostruire i percorsi dei futuri volontari di Spagna, il volume passa a delineare gli avvenimenti contemporanei e immediatamente successivi al tentato golpe dei generali spagnoli del 18-19 luglio del 36, e golpe contrastato dalle organizzazioni politiche della sinistra e il movimento dei lavoratori, che poi spesso sulla base di strutture preesistenti diedero vita a formazioni miliziane. Ecco, di quei primi avvenimenti furono testimoni e in alcuni casi protagonisti un certo numero di cittadini stranieri, per due ragioni. In primo luogo il fatto che specialmente a Barcellona in quel periodo si trovavano alcune migliaia di sportivi appartenenti alle delegazioni che avrebbero dovuto partecipare alle Olimpiadi Popolari di Barcellona. E un altro motivo che faceva sì che si trovassero specialmente a Barcellona un certo numero di cittadini stranieri era il fatto che, sebbene la Spagna non fosse sicuramente la principale meta, una delle principali mete di emigrazione europea, E appunto specialmente il capoluogo catalano vedeva la presenza di alcune migliaia di emigrati politici o esuli, in gran parte originari di stati retti da regimi nazisti, fascisti e autoritari, come italiani, tedeschi e austriaci. Ecco, appunto in questo ambiente dove sono stati individuati anche i primi due volontari regionali, il meranese Johann Hilmer e Alfredo Fedrizzi, invece, originario di Sigonzano. I due si trovavano in Spagna già da qualche tempo, probabilmente in quel periodo si avvicinarono al movimento dei lavoratori e quindi subito dopo il golpe entrarono a far parte delle milizie. Ecco, nel frattempo, in risposta agli avvenimenti spagnoli, prese vita un vasto movimento di solidarietà internazionale a favore della Repubblica. Va però sottolineato come soprattutto nella prima fase della guerra civile spagnola, tra le motivazioni che portarono e che spinsero volontari internazionali a oltrepassare i Pirenei, ci fossero anche aspirazioni rivoluzionarie. Ecco, così con il passare delle settimane i volontari iniziarono a oltrepassare i Pirenei. Ecco, qui vediamo una delegazione di sportivi appunto che avrebbero dovuto partecipare alle Olimpiadi Popolari, e qui invece il volontario meranese Johann Hilmer e Alfredo Fedrizzi di Segonzano. Ecco, per quanto riguarda il caso italiano in Francia, i primi ad organizzarsi in modo collettivo per dar vita appunto a delle formazioni combattenti furono gli anarchici e i gellisti, gli esponenti del movimento di giustizia e libertà, che sin dagli anni precedenti avevano avuto alcuni avvicinamenti, in particolare sulla necessità dell'azione in senso antifascista. Ecco, questi due movimenti furono quelli che determinarono e che vollero la costituzione della prima formazione di lingua italiana in Spagna, ossia la sezione italiana della colonna Scaso, della quale fanno parte e fecero parte anche alcuni sudtirolesi, come Schnitzer del Meranese e altri militanti trentini. E quindi diciamo nel nostro volume vengono ripercorse le prime fasi di questa formazione miliziana. Ecco, in quel momento centrale era considerata l'unità antifascista. Così a quel progetto aderirono anche i socialisti massimalisti e l'Azione Repubblicana Socialista. Ecco, non è dunque un caso se fra anche gli esponenti del primo volontariato regionale troviamo elementi legati a diverse movimenti politici, quindi anarchici, gellisti, ma anche socialisti. Ecco, da tenere presente che a quel progetto invece non avevano aderito né il Partito Comunista d'Italia né il Partito Socialista. Tuttavia, di fronte alla mancanza di direttive, anche militanti di base di quei partiti iniziarono a partire, spesso in modo individuale o a piccoli gruppi. Ecco, tra questi, ad esempio, è stato individuato Riccardo Gasperini, militante comunista, originario della Val di Non, di Malé, che si portò sin dai primi di agosto, dapprima nei Paesi Baschi, partecipando alla battaglia di Irun, poi riuscì dalla Spagna, si riportò in Francia e poi rientrò dalla Catalogna arruolandosi in una colonna internazionale. Costante Mengoni invece, legato alla frazione bordighista di Parigi, a metà agosto raggiunse Barcellona, entrando a far parte assieme ai comunisti, a comunisti antistalinisti di varie nazioni, della colonna internazionale Lenin patrocinata dal PUM. È una colonna abbastanza nota, che sarà nota in seguito, perché una volta riorganizzata sarà la colonna dove si arruolerà George Orwell, che hai citato prima. per la partenza di Silvio Bianchi invece di Mori fu determinante un incarico assegnatogli dalla dirigenza del Partito Socialista Italiano, che però, come il Partito Comunista d'Italia, fino a quel momento non aveva contemplato un intervento armato, nonostante il sostegno espresso alla causa repubblicana. Con l'inizio del settembre del 1936, ormai a causa di un certo fermento diffuso anche tra la base del Partito Comunista d'Italia, venne costituita a Barcellona la Centuria Gastone Sozzi, nella quale si arruolò Giovanni Malacarne di Ponte Arche, proveniente dal Lionese, con un decreto di espulsione pendente dalla Francia. Ecco, sull'arruolamento in una formazione piuttosto che in un'altra, a ragioni più strettamente politiche, si affiancarono però anche tensioni personali. Ne è un esempio il caso del socialista libertario, già citato in precedenza, Emilio Strafelini, il quale, animato probabilmente da una certa tensione all'azione, anziché attendere la partenza per il fronte della sezione italiana, decise di unirsi direttamente a una formazione anarchica spagnola, arrivando poi a comandare tre centurie. Ecco, già solo attraverso queste esperienze, questi esempi, appare evidente come anche il primo volontariato in armi in Spagna fu un fenomeno estremamente variegato, sul quale influirono motivazioni di carattere politico, militari, ma anche personali. Scusate. Ecco, con l'obiettivo di ricostruire le ragioni che spinsero gli altri volontari regionali a partire nei mesi a venire, è stato necessario invece addentrarsi nelle decisioni prese in seguito per il caso italiano dal Partito Comunista, Partito Socialista e Partito Repubblicano Italiano, ma soprattutto dall'Unione Sovietica, dell'Internazionale Comunista e di conseguenza anche dal Partito Comunista Austriaco, e qui che determinò quindi le partenze anche dei volontari austriaci e dei sudtirolesi, del grosso dei sudtirolesi. Ecco, come anticipato, fino a quel momento i principali partiti dell'antifascismo italiano e della sinistra internazionale in genere si erano limitati a inviare osservatori, a sensibilizzare gli emigrati alla causa repubblicana, costituendo comitati per la raccolta e invio di materiali e aiuti umanitari. Ecco, una nuova fase del volontariato in armi si aprì a partire dalla seconda metà del settembre 1936. Quando l'Unione Sovietica e l'Internazionale Comunista decisero di intervenire in modo diretto, dando avvio alla cosiddetta Operazione X. Mediante questa operazione l'Unione Sovietica avrebbe inviato in Spagna armamenti, tecnici e assessori militari, mentre l'Internazionale Comunista si sarebbe occupata del reclutamento di volontari per dare vita alle brigate internazionali. Ecco, va precisato che l'adesione ai partiti dell'Internazionale Comunista non era vincolante, ragione per cui nelle brigate internazionali entrarono elementi di ogni tendenza dell'antifascismo. Cosa questa che contribuì a rendere anche quell'esperienza estremamente sfumata al suo interno. Tanto che anche per il caso trentino su tirolese, a fianco di una maggioranza chiaramente di orientamento comunista, troveremo socialisti, ma anche semplici antifascisti per i quali non risultava alcuna adesione a partiti o sindacati. In senso più generale, attraverso gli studi più aggiornati, è emerso in modo sempre più nitido come, sebbene le brigate internazionali fossero nate sotto l'egida dell'Internazionale Comunista, la cui politica era legata a Mosca, sarebbe semplificatorio considerarle un mero strumento di Stalin in terra spagnola. Se su di esse qualche ingerenza moscovita effettivamente ci fu, certamente più significativo fu il peso della linea di fronte popolare perseguito allora dall'Internazionale Comunista. Internazionale Comunista che puntò a coordinare e fornire maggiore organizzazione ad un volontariato che fino a quel momento si era sviluppato prevalentemente in modo spontaneo. Altro fattore da tenere in considerazione per meglio comprendere quel fenomeno di volontariato in armi è come vada fatto un distinguo tra i militanti di base e le loro tensioni e aspirazioni individuali e le dirigenze dei vari partiti con le loro linee politiche ufficiali. Altro elemento ci sembra interessante mettere comunque in luce è come le brigate internazionali in senso organizzativo ebbero poco a spartire con le milizie della prima ora, in quanto fin da subito, dalla loro costituzione, entrarono nell'orbita del ricostituito Esercito Popolare Repubblicano. Ecco, in ogni caso quegli avvenimenti del primo periodo si stavano verificando in modo serrato, a volte sovrapponendosi. Per il caso italiano, il mutato atteggiamento dell'Unione Sovietica e dell'Internazionale Comunista portò i dirigenti comunisti a considerare una proposta che era stata fatta poco tempo prima dal Partito Repubblicano Italiano, ovvero quella di costituire una seconda colonna, oltre la sezione italiana, da inviare in Spagna. Così il 27 ottobre 1936 venne firmato tra i principali partiti dell'antifascismo l'atto costitutivo della cosiddetta Legione Italiana, formazione che avrebbe dovuto essere autonoma. Tuttavia la sua effettiva costituzione era nel frattempo stata superata dagli eventi, in quanto già a metà di quel mese la Spagna, e più precisamente Albacete, avevano iniziato ad essere raggiunte dai primi contingenti di volontari internazionali, di fatto determinando l'assorbimento della Legione nelle nascenti brigate internazionali. Ecco, per la ricostruzione di quegli avvenimenti ci siamo avvalsi anche della testimonianza del già citato Silvio Bianchi, che è rientrato in Spagna a metà di ottobre, a quel punto inviò una serie di relazioni alla dirigenza del PSI informandola di quanto si stava verificando ad Albacete. Fu dunque in questo contesto che si determinò una nuova fase degli arruolamenti anche per i trentini, il cui bacino a quel punto si allargò dalla sola Francia anche al Belgio. Oltre alle sezioni di partito, canali per l'arruolamento furono le organizzazioni sindacali, ma anche le associazioni di carattere reducistico. Ecco, un dato interessante da noi approfondito è il peso che venne assunto dall'Associazione Franco-Italiana dei Vecchi Combattenti, l'AFIAC, di orientamento antifascista, nella cui dirigenza si trovavano i roveretani Enzo Schettini, Silvio Bettini e Francesco Bombieri, entrambi con esperienze pregresse di volontariato in armi, sebbene in quel caso di segno nazionale. Infatti sia Schettini che Bombieri durante la Grande Guerra si erano arruolati nell'esercito italiano, mentre il primo era poi stato anche con Gabriele D'Annunzio a Fiume. Figura interessante Schettini poi per la Bolzano del secondo dopoguerra, perché comunque sarà consigliere comunale del Partito Comunista Italiano. Provinciale. Ecco. È stato il primo comunista dell'ATAC. Ecco. Silvio Bettini Schettini. No, giusto. Perfetto, grazie per la precisazione. E non che... No, perché è interessante, perché sappiamo poco di lui. No? Sì. Per questo è molto interessante il vostro lavoro. Scusate. Grazie. Ecco, il nostro lavoro dunque si sviluppa ricostruendo in chiave politico-militare le vicende successive del battaglione Garibaldi dal maggio 1937, 12ª Brigata Internazionale, in quanto dalla sua creazione rappresentò la principale destinazione anche dei volontari trentini, assorbendo inoltre i superstiti di alcune centurie internazionali, senza però tralasciare le vicende di altre brigate internazionali o formazioni, come la già citata colonna internazionale, con la sua opposizione al processo di militarizzazione e della sezione italiana, con la sua crisi interna tra anarchici e gellisti, dettata dalla medesima questione, e che portò all'inizio del 1937 alla sua costituzione quasi esclusivamente anarchica. Ecco, non c'è, per ragioni di spazio, qui non c'è possibile approfondire altre esperienze di formazioni in cui militarono volontari regionali, in ogni caso queste non furono le sole, solo per citarne alcune, il Battaglione della Morte, dove militarono alcuni trentini, e alcune brigate miste dell'Esercito Popolare Repubblicano che videro una presenza regionale. Ecco, l'arrivo dei volontari provenienti da sempre più lontano fu determinato prevalentemente dal perfezionarsi della macchina organizzativa dei partiti legati all'Internazionale Comunista. Ad esempio, con l'inizio del 1937, mediante una serie di passaggi clandestini tra Austria e Svizzera, organizzati dal Partito Comunista Austriaco, si registrarono anche le partenze del grosso dei volontari sudtirolesi, che parteciparono al conflitto tendenzialmente con il battaglione 12 febbraio dell'11ª Brigata Internazionale. ma a quel punto anche di statunitensi e italoamericani, come i trentini Federico Salvini e Albino Zattoni, che dopo essere emigrati negli Stati Uniti, riattraversarono l'oceano al fine di arruolarsi nelle brigate internazionali. Partenze poi iniziarono a registrarsi anche direttamente dall'Italia, sebbene per il Trentino l'unico caso sia quello di Adriano Bertella. Ecco, da segnalare come dopo un iniziale periodo in cui le partenze dalla Francia erano avvenute in modo pubblico e in grossi contingenti, via treno o via nave, a seguito dell'adesione della Francia alla linea del non intervento, gli attraversamenti del confine non furono privi di imprevisti. Ne sono esempio le vicende di alcuni corregionali i quali riuscirono a raggiungere la loro destinazione in Spagna solo dopo essere stati incarcerati per un certo periodo in Francia. Ciò riguardò anche Valentino Segata della sezione italiana, che dopo essere uscito dal paese iberico per una licenza verrà arrestato nel tentativo di rientrarvi, scegliendo poi, a fronte anche degli avvenimenti che si erano determinati nel maggio del 1937 in Spagna, di rientrare definitivamente a Parigi. In ogni caso si è potuto constatare come entro la prima metà del 1937 buona parte del primo volontariato regionale avesse già iniziato a lasciare il paese per ragioni più diverse. Nel caso del già citato Giovanni Malacarne influì probabilmente un mix di motivazioni di salute e familiari. Ferito combattendo col battaglione Garibaldi sul fronte di Madrid, rientrò poi in Francia anche a seguito della morte del fratello Arturo, che cadde combattendo con la medesima formazione. Tuttavia furono poi le tensioni interne al cosiddetto fronte antifascista, determinate da una diversa interpretazione della lotta in corso e sfociate nei noti fatti di Barcellona del maggio 1937, che spinsero il grosso dei superstiti della sezione italiana ad abbandonare la Spagna oppure a rimanervi con un basso profilo. Il caso di Alfredo Fedrizzi, che in seguito a quegli avvenimenti trascorse lunghi mesi nelle carceri repubblicane, ci ha portato ad approfondire la questione dei cosiddetti arresti governativi, che si abbatterono sui militanti del PUM, anarchici, ma anche volontari internazionali. Sempre partendo dalle vicende di alcuni trentini, ma sul fronte opposto, certo spazio è stato dato ai cosiddetti volontari di Mussolini, fatti prigionieri dai repubblicani a Guadalajara e in altre occasioni. Contemporaneamente ci è parso interessante non confinare il nostro lavoro a quanto si stava verificando dentro i confini della Spagna, ma tentare di mettere in luce anche gli effetti che quella guerra civile ebbe sugli ambienti dell'emigrazione e in secondo luogo sulla regione. Per questo secondo aspetto, in particolare, si è preso in considerazione l'ascolto clandestino in regione delle radio repubblicane spagnole di Radio Mosca, che determinarono una serie di manifestazioni di dissenso verso il regime fascista, anche se spesso individuali. Per citare un esempio locale, l'uva è di tutti, viva la Spagna, scrisse per protesta un gruppo di operai su un cartello che poi abbandonò in un campo prima di dileguarsi, con un chiaro riferimento alle collettivizzazioni della terra di stampo libertaria messe in atto nel paese iberico. Tornando alla Spagna, con il settembre 1937, commissario politico della 12ª Brigata Internazionale, venne nominato il trentino Quinto Battistatta, divenendo così, oltre che protagonista, un osservatore privilegiato delle formazioni internazionali. Mediante i verbali delle riunioni del commissariato politico si sono potute ricostruire in modo più compiuto le operazioni belliche in cui furono coinvolte le brigate, ma anche le loro dinamiche interne, comprese carenze militari e problematiche sentite dagli stessi volontari. Un esempio su tutti è la diffusione da un certo momento in poi di certo malcontento tra i volontari, che portò a tentativi di diserzione di lasciare la Spagna, con alcuni casi anche fra i trentino-sudtirolesi. Una cosa, diciamo, che può apparire sorprendente se si pensa ad un volontariato caratterizzato da slanci di generosità e su base ideale. D'altronde il volontario di Borgo Valsugana, Oscar Simoni, in una lettera al fratello aveva scritto: non è stando a casa che si difende una causa. Tuttavia, per quanto riguarda il fenomeno delle diserzioni, sarebbe stato riduttivo ad attribuirlo alla sola demoralizzazione individuale, è infatti determinato, secondo l'opinione degli stessi commissari politici, da un sistema di permessi e licenze per l'estero deficitario e insoddisfacente. Proseguendo con il conflitto nel luglio del 38, ebbe inizio la battaglia dell'Ebro, che si sarebbe protratta per alcuni mesi. A fine settembre però i volontari stranieri vennero ritirati dal fronte per via di calcoli di politica internazionale fatti dall'allora capo del governo Juan de Green, decisione che determinò l'assegnazione dei volontari internazionali ad una serie di campi di smobilitazione nel nord della Catalogna. A quel punto i rimpatri iniziarono ad avvenire a singhiozzo e per molti si aprirono lunghi mesi di incertezza e attesa, impossibilitati a ristabilirsi nei paesi dove erano approdati a seguito di emigrazione, per via di una situazione irregolare, oppure a rientrare nei propri paesi d'origine in quanto retti da regimi nazifascisti autoritari. A partire dalla fine del 38, a seguito dell'offensiva nazionalista sulla Catalogna, si ebbero gli ultimi tentativi di resistenza armata, quando parte degli ex volontari delle Brigate Internazionali furono riorganizzati per contribuire a frenare l'avanzata delle truppe franchiste. In ogni caso, più in generale, tutti i volontari che si trovavano ancora in Spagna vennero poi coinvolti nella cosiddetta ritirata della Catalogna, che si concluse a inizio febbraio del 38, quando anche gli ultimi gruppi di brigatisti riuscirono ad attraversare il confine franco-catalano. Ecco, mantenendo un'impostazione di lungo periodo, a quel punto si poneva un ulteriore quesito, ossia quali erano state le conseguenze di quella scelta di volontariato in armi in Europa che vedeva sempre più il dilagare di regimi nazifascisti e un conflitto mondiale ormai ritenuto da più parti imminente. Abbiamo quindi deciso di non concludere il nostro lavoro con l'uscita dalla Spagna, che di fatto pose fine a quell'esperienza di volontariato in armi, ma prendere in considerazione gli avvenimenti che si verificarono negli anni successivi. L'internamento nei campi del sud-ovest della Francia e l'assegnazione a domicilio coatto attuato dal Ministero degli Interni francese furono solo alcune delle vicissitudini dei volontari nei periodi successivi. Ecco, declinare ogni singola traiettoria biografica è qui impossibile, ma per una parte si ebbe poi l'arruolamento nelle compagnie di lavoratori stranieri adibite alla realizzazione di fortificazioni al nord della Francia, il rimpatrio in Italia, il carcere, il confino o la deportazione in Germania, dove un certo numero perse la vita. Di alcuni negli anni della Seconda Guerra Mondiale si perdono le tracce, mentre per altri, a seguito dell'inizio di quel conflitto, si assiste al ritorno alla lotta con la loro adesione alle varie resistenze europee. In generale, in molti casi, furono proprio i reduci di Spagna ad addestrare e organizzare le nuove formazioni combattenti. Ma non solo, essi al contempo contribuirono a ispirare una nuova generazione di antifascisti europei e così, a quel punto, anche fra l'emigrazione regionale, vedremo la comparsa sulla scena di elementi anagraficamente in gran parte più giovani. La parte monografica del nostro lavoro si conclude con il dopoguerra, evidenziando quanto complicato per i reduci di Spagna fu trovare una propria collocazione nell'Europa in corso di pacificazione. Dei superstiti alla guerra civile spagnola solo una minoranza rientrò in regione, molti altri rimasero all'estero e solo una parte ristretta in seguito ebbe un coinvolgimento politico attivo. In generale, il loro contributo in Spagna, come parte dei movimenti resistenziali al nazifascismo, non venne riconosciuto. Ha ragione Enrico Acciaglia, ha definiti i reduci di una guerra senza pensioni e senza medaglie. Ne è un esempio il caso di Mansueto De Simone di Valfioriana, deceduto nel campo di Flossenburg nel 1944. Nel dopoguerra il padre, rivoltosi alla commissione provinciale per chiedere il riconoscimento del contributo dato dal figlio alla lotta di liberazione, si vide rispondere che la sua vicenda non aveva alcuna attinenza con i partigiani. Il nostro lavoro è completato, come già anticipato, dalle schede biografiche degli 88 volontari regionali individuati e schede che speriamo, messe in relazione con la parte monografica, possano contribuire a far comprendere in modo più compiuto il fenomeno del volontariato internazionalista in Spagna, sia regionale ma non solo. Ecco, è inoltre arricchito da un corposo apparato fotografico, in buona parte inedita. Chiudo la nostra presentazione con solo una breve nota sulle fonti utilizzate. Dopo una prima fase della ricerca nella quale sono state consultate prevalentemente fonti locali e nazionali, si è resi conto di come per meglio ricostruire le vicende di volontari transnazionali, con i più lunghi anni trascorsi all'estero e nell'emigrazione, fosse necessario volgere la nostra attenzione a fonti anch'esse transnazionali, quindi provenienti da paesi e contesti differenti. Ecco, solo per fare alcuni esempi, fondamentale si è rivelata l'accessibilità ai documenti delle brigate internazionali conservati presso il Ragaspi di Mosca, mentre per quanto riguarda Francia e Belgio, a quelli prodotti dai ministeri degli interni dei due paesi, ma anche lo spoglio di giornali del fuoriuscitismo e dei movimenti antifascisti all'estero. Ecco, grazie per l'attenzione. Sì, grazie Lorenzo, grazie Enzo. Vogliamo aprire al pubblico se ci sono domande. Archivi spagnoli ne sono stati visitati, interpellati. Visitati no, però abbiamo avuto modo di recuperare documentazione, specialmente dal Centro Documentale della Memoria Storica di Salamanca e l'Archivio Nazionale di Catalogna, solo per citare i principali. Prego. Avrei una domanda dettagliata e una un po' più generica. Se vi siete trovati tracce dell'anarchico bolzanino Alfredo Zanella implicato nell'omicidio dei fratelli Rosselli, confidente dell'Ovra e poi spia dell'ufficio affari riservati. E la seconda, più generica, chi lavora nei archivi, non solo in Italia ma soprattutto in Italia, si imbatte in regole e leggi assurde che si chiamano privacy. Se avete avuto dei ostacoli per pubblicare e avere dei documenti. Grazie. No, di Alfredo Zanella non abbiamo trovato niente, non avevo mai sentito parlare neanche di questa storia. Quindi grazie, sarà un'occasione, sicuro una cosa da approfondire. No, anche riguardo la pubblicazione di documenti, problemi di privacy, non abbiamo avuti, insomma. Si parla spesso di documenti datati e quindi, per dire, anche dati, come dire, sensibili, non è che ne abbiamo trovati tanto, no? Quindi nessun problema di particolare di questo tipo. Una domanda che mi è sorta è rispetto alle donne, se magari avete trovato qualcosa di interessante che non è stato detto rispetto a magari delle madri o compagne e mogli nei luoghi di nascita, da dove provenivano, riguardo alle storie di chi è partito per combattere. Beh, dico due cose e poi ti lascio, interessante la cosa di Staffelini. No, allora, donne volontarie non ne abbiamo trovate, almeno dall'Italia, insomma, comunque parliamo degli anni 30, chiaramente si sconta anche una sorta di problema culturale. Però abbiamo trovato, diciamo, sicuramente una donna fuori dal, come dire, fuori dagli schemi per l'epoca, e parliamo della moglie di un volontario, Emanuele Zeni. Non voglio dire qua la moglie del... La cosa interessante è che lei non è la moglie del... Si potrebbe quasi dire che lui è il marito della serie. Parlo di Giuseppina Marcon, di cui ricostruiamo la biografia anche qui, perché ricostruendo appunto la biografia di Emanuele Zeni, questo volontario che muore nel 1937 in Spagna, ci siamo poi resi conto di come la storia di sua moglie era ugualmente interessante, se non di più per certi aspetti, perché parliamo appunto di una donna originaria di Grumo, della Rotaliana, che in Belgio ha un ruolo di primo piano nell'organizzazione del movimento comunista e anche nel mantenere la corrispondenza con i volontari del Belgio che vanno a combattere in Spagna, e anche nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando lei ha un ruolo di primo piano nella resistenza in Belgio. E gli vengono date riconoscimenti anche dallo Stato belga. E appunto una figura veramente interessante di cui abbiamo ricostruito la biografia. Sono belle anche le lettere che scrive a un certo punto, a un certo punto nel 1944 lei lavora in Germania, lavora adesso in una fabbrica, non mi ricordo bene di cosa, a un certo punto dice tua sorella ha sempre avuto una vita un po' da bohemienne, adesso sono un po' stanca dopo tanti anni di tribolazioni. Però appunto è una figura molto interessante, secondo me fra le più interessanti che emergono. E ecco, poi ti lascio a te dire magari anche le contraddizioni. Sì, allora, vabbè, come anticipava Enzo, donne che sono trentino o sudtirolesi che sono portate in Spagna non ce ne sono state. E, vabbè, mi ricollego un po' alla domanda che fai, nel senso che comunque attraverso la figura di Straffelini, di Emilio Straffelini, che come avevo anticipato arriverà a comandare tre centurie di miliziani in Spagna. Ecco, attraverso una sua intervista, nonostante i fatti immediatamente successivi al golpe dei generali e alla costituzione delle milizie, che diciamo è un momento che apre nuove possibilità, nel senso che da quel momento in poi le donne hanno la possibilità di arruolarsi e portarsi al fronte e combattere a pari degli uomini. Ecco, anche se noi a volte immaginiamo questi militanti anarchici particolarmente illuminati, in realtà poi da un'intervista che gli è stata fatta da Solidaridad Obrera, il giornale principale giornale anarco-sindacalista spagnolo, Straffelini dichiarò di essere più preoccupato della presenza di due donne al fronte che non del comando di 300 uomini. Ecco, quindi per dire che non è tutto così lineare e a volte ci sono anche delle contraddizioni in questi volontari. Solo per le donne mi viene in mente che chiaramente c'è stata presenza non tra i tirolesi, però ricordo tra gli austriaci, soprattutto da Vienna, no? Ci sono anche donne che sono partite però non per combattere, però per esempio come infermiere, no? Comunque c'è una presenza di donne. E un altro aspetto che mi viene in mente è che c'è l'aspetto dell'amore anche dentro in questi volontari, cioè dobbiamo vedere che tanti sono partiti come singole persone o piccoli gruppi. E se ricordo, quel gruppo di cui mi sono occupato un po' io del Tirolo del Nord è il gruppo di quattro persone, no? Un giovane contadino e tre amici, no? E lì uno è morto, gli altri tre hanno sopravvissuto, però due hanno trovato moglie in quella situazione del volontariato. Cioè, secondo me anche un aspetto che anche oggi è interessante di questa storia è proprio quello che si tratta spesso di singole persone che si sentono marginalizzati, isolati, fanno quel passo all'estero e vogliono partecipare a una nuova cosa, e lì trovano anche comunità. Comunque l'aspetto del labore è presente anche nella letteratura. Se ricordo un altro volume delle memorie letterarie di un'austriaca, adesso mi è sfuggito il nome, comunque il libro o il romanzo si chiama Telefonica. Telefonica è ancora oggi un edificio a Madrid, no? la centrale telefonica, e questo romanzo gira attorno a questo edificio durante la guerra, e lei lì ha trovato il suo marito spagnolo. No, comunque la presenza di donne c'è, però chiaramente non nel combattimento. No. In più ricordo anche in Spagna, però ci sono anche, c'è l'anarcofemminismo, anche no, e gioca un ruolo. No. Chiaramente anche poi da parte nazionalista questo è stato l'aspetto per essere contro la Repubblica. No. Qui cioè le donne repubblicane si comportano diverso, no, da quelle nazionaliste conservatrici. No. E volevo chiedere questo, siccome ho visto che nel vostro lavoro parlate anche dopo del ritorno dalla guerra spagnola, volevo chiedere, i volontari sudtirolesi di lingua tedesca che sono andati in Spagna, alcuni di questi poi ritornando col fascismo durante la guerra partigiana sono diventati anche soggetti nella lotta partigiana, poi a fianco, perché sappiamo che sono questi problemi di Pircher e altri casi qui in Alto Adige. Volevo sapere se c'è qualcuno di questi. Grazie. No, in realtà no. Diciamo di questi volontari sudtirolesi, alcuni muoiono durante la guerra civile in Spagna. Adesso Schnitzer muore in un lager in Germania, poi di alcuni se ne perdono le tracce. Wilander, ad esempio, dopo la liberazione, dopo essere stato internato ad Dachau, dopo essere stato liberato dai lager tedeschi, va a vivere in Austria, dove la famiglia nel frattempo aveva optato per l'Austria, per la cittadinanza tedesca. E quindi di fatto l'unico che torna in Alto Adige a un certo punto è Ferdinand Rögle di Caldaro, che diciamo che muore nel 1953 a Pergi, nel manicomio, dopo essere stato per 5-6 anni internato nel manicomio. Adesso poi noi abbiamo avuto accesso anche alla documentazione con cui viene in qualche modo raccontato il suo periodo a Pergine, che era stato portato lì dopo aver avuto dopo aver litigato con degli agenti di polizia, pare fosse alterato per l'assunzione di alcolici, ubriaco, e dopo questo episodio insomma era stato internato. Però appunto diciamo di protagonismo nella lotta di resistenza pare forse l'unico, questo Karl Huber, nato a Bolzano, però anche lui la sua vita poi come dire si svolge fuori, praticamente quasi completamente fuori dai confini provinciali, e lui pare che abbia dei contatti con la resistenza in Francia, l'unico diciamo con cui pare che ci siano comunque dei collegamenti che abbiamo evidenti, poi di quello che siamo riusciti a trovare è questo, insomma. Non so se vuoi aggiungere. È una curiosità. Quante di quelle foto che pubblicate voi fanno riferimento a Robert Capa e a Gerta, la ragazza della Leica, famoso libro che ha vinto anche il premio Campiello? E se ci sono, a quale foto fate riferimento, a quale archivio fotografico? Ma nel libro non c'è nessuna fotografia di Robert Capa né di Gardataro. Diciamo sono tutte fotografie che sono state raccolte in archivi sparsi. Ad esempio la fotografia di copertina, abbiamo voluto metterla perché non è certo ci siano volontari trentini o sudtirolesi nella fotografia. La fotografia però è stata ritrovata nel gennaio del 1938, durante una perquisizione a Pergine Valsugana a casa di un militante comunista, quindi comunque significativa anche del fatto che alcuni materiali di propaganda o comunque fotografie in qualche modo riuscissero ad arrivare anche in Italia e in regione. Però ecco, le fotografie sono state raccolte veramente negli archivi più diversi. Come? Sono inedite. Una buona parte, sì. Posso chiedere com'è nata la vostra collaborazione? Che niente di non è una no, è da un interesse personale, da come dire, adesso non mi ricordo bene perché sono passati ormai anni, però mi pare che tu avessi trovato il libro, quello della pubblicato dall'AICVAS, avessi cominciato un po' a raccogliere, diciamo, a evidenziare la presenza di alcuni volontari regionali, e poi, dato che insomma la cosa interessava molto anche a me, abbiamo cominciato insieme in modo un po' più strutturato a cercare documenti, grazie a Mirko Saltori e Quinto Antonelli, due storici ricercatori della Fondazione Museo Storico di Trento, che hanno dato valore, hanno appoggiato questa ricerca, e abbiamo avuto anche un sostegno economico da parte della Fondazione Museo Storico di Trento per fare in modo un po' più, come dire, continuo, sistematico le nostre ricerche, andando a Roma, andando a Milano, e quindi poi la cosa ne si è portata avanti fino adesso, che siamo riusciti dopo tanto tempo a pubblicare, insomma. Però, come dire, una cosa per passione, ecco, insomma. Infatti, per dire anche per quello che mi riguarda, ma sicuramente anche per Lorenzo, insomma, questa ricerca nasce anche proprio da un'esigenza personale anche di riscoprire queste storie, che una parte di storia di poco valorizzata, poco conosciuta, di persone dal basso, persone semplici che hanno fatto la storia, però non hanno avuto un riconoscimento, non sono diventati personaggi pubblici, non hanno fatto carriera politica, non hanno guadagnato nulla. Infatti, come dire, nessuno di loro, di questi volontari, poi ha un ruolo pubblico importante, riconosciuto. Infatti erano un po' caduti nel dimenticatoio. E questo è anche una cosa che un po' abbiamo evidenziato, una cosa interessante, no? È di come dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver passato anni di guerra, internamento, persecuzione politica, per molti di loro non è che finisce la persecuzione politica con il passaggio alla democrazia. Ad esempio c'è Giuseppe Bettini di Mezzo Lombardo, che combattente in Spagna, poi in Belgio, è un eroe della Resistenza, riceve una medaglia d'oro, però dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, c'è un ritorno, c'è un posizionamento dell'Europa, guerra fredda, l'Europa occidentale, insomma, l'anticomunismo è imperante, in Belgio pure, e nel 1951 viene espulso dal Belgio, Giuseppe Bettini, perché comunista. Ed è interessante come anche questa ricercatrice, Anne Morelli, che negli anni 70-80 faceva interviste a vecchi comunisti, vecchi militanti, vecchi partigiani, di come ci fosse ancora una reticenza a parlare della propria appartenenza politica, perché c'era il timore di venire espulsi. Insomma, questo è un caso, ma ce ne sono molti altri. In Belgio negli anni 50 furono moltissimi gli eroi della Resistenza espulsi per la propria militanza politica. E infatti poi anche Straffelini, per dire, anche qui in Italia, la polizia continua a sorvegliarlo, continuano tutti a essere in qualche modo sorvegliati, perché insomma, naturalmente il passaggio alla democrazia, sicuramente c'era stata la Costituzione che in qualche modo a livello istituzionale segnava una rottura col passato, però gli uomini rimanevano gli stessi, gli uomini nei luoghi di potere, nelle prefetture, i giudici, le questure, insomma, non c'era stato questo grande cambiamento, questa grande opera di defascistizzazione, insomma. E quindi, ecco, e ci tenevo anche appunto a dire come non c'è stata gloria, ecco, per loro, nonostante abbiano avuto un percorso di vita in cui hanno pagato un prezzo enorme. Io volevo chiedere se analizzando i profili biografici emerge una qualche provenienza, diciamo, geografica privilegiata, no? Valli, territori. Ascoltandovi prima mi sembrava che ci fossero parecchi nonesi, no? E mi sembrava che anche Francescotti, anche nell'altro libro, quello che dedicava ai prigionieri trentini in Russia nella Prima Guerra Mondiale, forse Francescotti era noneso anche lui, se non sbaglio, no? Ecco, mi stupiva un po' questa provenienza, questi nonesi, diciamo, comunisti. Ecco, se è vero... Ma allora, un po' analizzando e mettendo insieme un po' tutti i profili biografici, diciamo, sembrerebbe, cioè, sono sicuramente molti di più i volontari provenienti dalle valli, quindi non dai centri urbani. Trento, Rovereto, sì, ce ne sono, però se rapportati poi a tutte le zone del resto della regione, sono sicuramente di più provenienti appunto dalle valli, probabilmente perché interessate di più a un certo punto da fenomeni migratori, quindi l'emigrazione e poi la politicizzazione all'estero. Ecco, questa, diciamo, un po' la spiegazione una spiegazione che si potrebbe dare. Ecco, sì. Se posso fare una domanda, non so se mi sentite. Sono qua. Niente, volevo chiedere se nel corso delle ricerche questo elemento della forte dimensione, diciamo, di conflittualità politica interna allo schieramento antifascista emerge anche da parte, diciamo, della comunità degli esuli regionali, locali, verso l'esterno, no? Voi adesso notavate ad esempio un fatto che ci sono delle importanti omissioni, no, nella partecipazione in Spagna. Se penso gruppi dirigenti locali, insomma, Silvio Flor non va in Spagna, Emma Mezzomonti non va in Spagna, si ferma a Parigi. Ci sono figure intellettuali che anche hanno avuto ruoli poi di spicco diretto e indiretto anche a livello di politica successiva, che non prendono posizione su questo, oppure figure che invece in Spagna si ritagliano posizioni forti, come Strafellini, con atteggiamenti anche molto ondivaghi politicamente, perché appunto attraversano scenari completamente diversi, da quello socialista alla colonna Durruti a un certo punto, no? Partecipa anche alla columna de Hierro, almeno sostiene lui nelle sue memorie, quindi fa parte di un'identità che però a rientro poi in Trentino non prende più parte all'attività politica, perché di fatto c'è un'altra forte omissione, tranne il caso di Silvio Bettini e Toschettini, spariscono un pochettino dallo scenario della resistenza attiva in territorio, no? E quindi c'è anche questo un elemento che probabilmente dà il segnale che la Spagna è uno shock per molti aspetti, non solo per il silenzio a causa degli effetti repressivi successivi, ma anche per una sorta di autoimposizione anche interna di forte difficoltà degli ex combattenti di ricollocarsi poi, no? Perché gli schieramenti, poi non dimentichiamoci, sono solo i fatti di Barcellona nel maggio del 37 in cui ci si spara dalle finestre, ma c'è anche poi il Molotov-Ribbentrop, voglio dire, di un paio d'anni dopo, che sfasciano completamente quello che è stato il tentativo di costruzione dello schieramento unitario. Si ricostituisce nel corso della Seconda Guerra Mondiale, dopo il 43, spesso sotto luci completamente diverse, no? Ricordo solo, se uno dovesse fotografare la situazione della Spagna del 37 e dell'Europa del 43-44, volti di protagonisti, una Simone Veil che parte dalla Francia, attivista intellettuale anarchica, e si colloca su quello schieramento, torna cattolica ed è un antifascista, un antinazista, ma su una posizione, definendola in soldoni, spiritualistica, cioè con un ritiro completo. Un fascista volontario in Spagna come Davide Laiolo lo ritroveremo leader della resistenza, cioè quindi dei percorsi in cui la dimensione spagnola sembra addirittura aver prodotto degli effetti divergenti, no? Nel caso, si immagina la figura di Vidali, voglio dire, Vidali, commissario politico a Barcellona, è probabilmente, se non l'esecutore, il mandante del assassinio di Andrés Nin, Poumista, il leader del Poum. Quindi ci sono degli elementi che poi chiaramente ritornano anche in alcune biografie importanti. Flor dall'estero è dentro a queste tormente qui, insomma, no? Molti itinerari, biografie intellettuali. Quindi è interessante quello che può essere la posizione anche piccola tutto sommato, no? Del nostro contesto territoriale, che è così piccolo, però un bel laboratorio di riflessione anche su questo elemento qui, anche su questo aspetto, no? Strafellini è circondato da spie dell'ovra, circondato letteralmente. Quindi c'è una situazione non solo di difficoltà oggettiva di movimento, ma anche del rischio di essere esposti, ve lo ricordavate anche nel caso di Silvio Bettini, poi di essere esposti a 3.000 situazioni. Un'altra delle cose che non bisogna dimenticare è che anche gli schieramenti antistalinisti comunisti dopo la guerra di Spagna non sono proprio attivissimi dal punto di vista resistenziale, perché c'è chi è andato in Unione Sovietica ed è stato fucilato. Ecco, quindi volevo chiedere se avete trovato poi questi elementi anche negli itinerari biografici, su un volume che sarà interessantissimo leggersi, proprio che è partita le biografie. Allora, diciamo che hai citato Strafellini fra tutti i volontari è quello che scrive di più, è di quello anche di cui abbiamo a disposizione più cose scritte da lui, anche nella dopo la guerra, no? Ed è uno dei pochi che anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con il ritorno alla democrazia, è l'unico che mantiene un'attività politica. Si candida al Parlamento col Partito Socialista Italiano e in lui rimane un forte accento anticomunista, che in realtà c'era già nel 34-35, prima della Guerra Civile Spagnola. Poi c'è una lettera che scrive dal campo di concentramento di Gurs in Francia, in cui comunque i veleni della sconfitta in Spagna continuavano ancora a dividere i prigionieri, no? Quindi anarchici, socialisti, comunisti, con i comunisti visti da molti come i responsabili e viceversa, insomma. Anche qui ci sarebbe molto da discutere. E in una lettera che nel 40 Strafellini scrive a Lionello Buffatto, che era un comunista di Rovereto, morto non tantissimi anni fa, scrive una lettera in cui dice: quello che ho visto in Spagna è terribile, Stalin si comporta come uno zar, appunto, ed è una cosa che mantiene questa diffidenza verso i comunisti anche in testi che scrive nel 45, nel 46, accusa i comunisti di non lavorare per il bene del proletariato, degli operai, eccetera. E quindi diciamo che un po' lui, e poi un altro forse anche che può valere la pena ricordare, Silvio Bianchi, anche lui socialista di Mori, che rimane legato al Partito Socialista di Rovereto, del Trentino, ma non più attivo, un po' perché si era fatto una famiglia, aveva già un'età abbastanza avanzata, e però anche lui non... composizioni insomma molto più moderate, molto più come dire, meno, non era un personaggio polemico come lo era Strafellini. E poi appunto di altri non abbiamo altre diciamo testimonianze, nel senso che dirette, sappiamo appunto i percorsi dopo. Le vicissitudini appunto tormentate che in molti casi ci furono, e di come anche situazioni di difficoltà, di estrema povertà anche in moltissimi casi. Però aspetta, mi sono perso, la domanda era appunto sulle diatribe interne, no? Vogliamo dire, nel fronte dell'antifascismo, appunto vediamo che quello era una cosa che già nei tempi prima della guerra civile spagnola, all'interno del cosiddetto fuoriuscitismo in Francia, un po' per l'attività delle spie, ma non era quello, i problemi derivavano, per molti si trascinavano dalla sconfitta subita in Italia, no? Quindi da una parte c'erano i socialisti, i riformisti, che venivano accusati di essere sostenitori, o comunque di essere dei collaboratori della borghesia, dall'altra i comunisti che invece avevano una linea più rivoluzionaria. Ci mettiamo poi le posizioni del Comintern, che accusavano di socialfascismo i socialisti, e questo chiaramente creava un clima di estremo sospetto all'interno dell'antifascismo emigrato. E quindi ci sono dei casi dove ad esempio un Silvio Bianchi, appunto, che era un socialista, però era uno che aveva, come dire, come tensione naturale, quello, era uno che dialogava, no? Era legato al Partito Socialista in Francia, però parlava con i comunisti, parlava con i socialisti, parlava un po' con un fronte ampio. Però questo atteggiamento veniva visto con sospetto ed era stato, gli era stato chiesto dai comunisti di sottoscrivere un documento in cui prendeva le distanze dai socialisti e dalla concentrazione antifascista. Lui si rifiutò, e, però appunto questo per dire il clima che c'era. Poi invece Costante Mengoni, anche lui noneso, legato a, ai comunisti bordighisti, anche lui venne messo sotto accusa da, da ambienti legati al Partito Comunista per, appunto, per il proprio bordighismo. E poi le cose cambiano con, appunto, con la col Fronte Unico prima, il Fronte Popolare poi. Quello crea un movimento che si crea sull'onda della paura per la vittoria dei fascisti anche in Francia, perché poi nel giugno del 34 in Francia ci sono delle manifestazioni che fanno, come dire, prendere, diciamo, un grosso spavento. C'è una paura che ci sia un golpe anche in Francia, che era rimasto l'unico grande paese europeo in cui il fascismo non aveva il potere. E questa paura, questa sensazione dell'importanza di mettere da parte le divisioni e mettersi insieme avviene sull'onda di questa paura. E quindi il Fronte Popolare crea un clima di unità, di slancio, anche di forza, che porta poi a vincere le elezioni e a, insomma, a vedere migliorate in poco tempo in modo evidente le condizioni della classe operaia. Poi chiaramente questa unità si disgrega molto velocemente, un po' per le contraddizioni interne del Fronte Popolare fra socialisti e comunisti, le difficoltà del clima internazionale, però insomma anche quella è una storia molto, molto interessante. Infatti poi anche ci sarebbe poi, vabbè, molto altro di cui parlare, però anche il Fronte Popolare crea un clima in Francia in cui anche gli immigrati, gli italiani e molti dei nostri volontari si riescono ad avvicinarsi alla politica, perché se prima fare politica in Francia da immigrato significava l'espulsione quasi garantita, no? Molti dei nostri volontari hanno ricevuto ordini di espulsione dalla Francia, perché nelle motivazioni del Ministero dell'Interno c'è scritto: professa idee comuniste, aderisce a teorie rivoluzionarie. Col Fronte Popolare c'è un clima in cui finalmente ci si può esprimere liberamente, e quindi anche il Partito Comunista e i sindacati vedono un'adesione crescere in modo massiccio nel giro di pochi mesi. No, volevo solo dire qualcosa riguardo l'ideologia. Credo che nella storia del movimento operaio, cioè soprattutto il tirolese, lingua tedesca, non ha mai un gran ruolo, no? E so solo dai lavori di Stepanek che proprio i tirolesi volontari in Spagna non sono quelli che sono stati anche dentro nel Partito Socialdemocratico, è proprio gente che sta al margine della società, che è stata criminalizzata, abbiamo la crisi economica e così via, e non sono proprio non è la gente di partito che va. No, e quindi credo che proprio per loro non è stato l'ideologia magari il primo motivo. Silvio Flo, forse si può aggiungere, è stato magari un buon esempio, perché fa vedere che non tutti che sono stati comunisti o socialisti sono andati a combattere. Flo è proprio il classico intellettuale, no? Che scrive, che non si sente come compagno da barricata. E quello, in più magari, se penso, è stato a Mosca, no? Alla scuola Lenin, è stato bocciato lì già prima in Francia. Credo che magari lì sapeva che era in bilico, forse è stato in Francia, aveva un contatto, però anche espulso, quindi non si sa. No, credo che proprio, e anche questo forse la cosa più interessante o l'aggancio per oggi, è proprio se si cerca di vedere questa guerra o questi motivi fuori dall'ideologia. No, proprio questi motivi. Per me proprio quella storia d'amore è stata una cosa interessante a vedere, no? La gente al margine che si sente isolato va lì e trova gruppo, ed è un po' questo, credo, che è anche stato il motivo perché oggi fino al vostro libro ci sono stati sempre dei tentativi, che gente ha fatto delle ricerche, no? Senza avere dei gran soldi dalle università, no? Perché le università per questo tema non hanno mai dato soldi, no? Però comunque, a parte quello, ci sono stati giovani della nostra generazione, e credo che noi abbiamo un po' vissuto anche questi sentimenti, no? Il mondo si allarga, ci sentiamo magari soli e cerchiamo di fare un passo fuori dalla nostra realtà e troviamo gente che è insieme a noi, no? E credo che per me è sempre stato questo lo spirito di questa storia, e devo dire sinceramente che con queste ricerche ho anche fatto buone amicizie, cioè trovando gente che si è interessata per questo tema ci siamo incontrati di nuovo, no? Facendo ricerche su altri temi ho incontrato altre persone, però non era mai così come su quel tema della Repubblica Spagnola, no? Volevo solo aggiungere quello. Volevo solo, ricollegandomi alla domanda di Andrea e di Michele, sulla valle in cui forse diciamo c'è un'incidenza maggiore di partenza di volontari, a me verrebbe in mente, chiaramente vabbè, la provenienza è molto distribuita su tutta la provincia di Trento in particolare, quasi ogni valle, ogni città dei volontari, però sicuramente una valle forse che mi sembra abbia una partecipazione particolare, non solo anche di volontari ma in generale di emigrazione politica, è la Val Sugana. E questo per dire anche nella parte poi generale, ci sono anche delle testimonianze, ad esempio di un vecchio comunista di Borgo, Bonecker, che raccontava come nel primo dopoguerra le nuove idee, quindi riferendosi al socialismo, al comunismo, erano state portate dai reduci di Russia e dai lavoratori immigrati provenienti dalle altre parti dell'Italia. E quindi questo si vede anche poi come nella Val Sugana ci fu una certa presenza di circoli socialisti, cooperative, che con l'affermazione progressiva del fascismo vennero chiuse, o comunque i militanti di base, i più attivi, tutti furono costretti a emigrare. Infatti poi una cosa che riportiamo anche come nel 23, 24, 25, quindi con il consolidamento del fascismo, tutti vanno in Francia praticamente, perché chiaramente non è che abbiamo il documento vado in Francia perché, però insomma è abbastanza evidente, in alcuni casi lo scrive la polizia stesso, emigra perché sopraffatto dai fascisti, oppure perché si vuole ricollegare agli emigrati oppure ai socialisti presenti in Francia, ed è appunto anche questo un aspetto secondo me appunto interessante, di come una generazione di militanti della provincia, soprattutto del Trentino, che è quella di cui abbiamo un po' avuto anche un accesso maggiore di documenti, di fatto, una generazione di fatto scompare, o è costretta a emigrare, oppure si deve ridurre al silenzio per sopravvivere. E quelli che devono emigrare, chi in Francia, chi in Messico, chi in Belgio, sono spesso appunto i militanti più attivi, più riconosciuti, e quelli che poi hanno una vita resa impossibile dalle squadracce piuttosto che e poi dalla polizia. La Michaela di Geschichte und Region mi ha detto: se non ci sono domande chiudiamo. Comunque grazie per l'interesse, grazie a Lorenzo e a Enzo, applausi. Grazie ancora per la vostra partecipazione. Vi ricordo a tutti che la serata può essere riascoltata dal nostro sito, in quanto registriamo le conferenze e quindi si possono riascoltare dal nostro podcast. Buona serata a tutti e arrivederci a presto.